Un'esposizione molto originale e poi anche una novità per la città di Verona. L'organizzazione ha voluto sottolineare la qualità che ci può essere nel lavoro artistico scultoreo del legno e ha raccolto una serie di artisti per far vedere le varietà e le differenze che ci possono essere nel modo di lavorare il legno, ma soprattutto nella capacità di far raggiungere questo materiale un livello d'arte. C'è stata anche una selezione, però, nel senso che sono stati portati degli artisti che hanno diverse voci, diverse tipologie. Durante questa esposizione ci saranno anche altre esperienze musicali, poetiche, eccetera, ma sarà interessante domenica prossima il dibattito. Alla mattina, qui ci sarà un dibattito con tre artisti che andranno un po' a confronto e sono Romano Abate di Treviso, Max Solinas e Mauro Corona.